bene, allora. Il disco. Allora il disco. Ma vogliamo parlare di questo disco nuovo che è in cantiere? Certo, parliamo di questo disco nuovo in cantiere. Allora, dunque, noi abbiamo registrato la bellezza di 14 branetti nuovi maldestri. 15 branetti nuovi maldestri che aspettano la pubblicazione. Sì. Da parte, mi immagino, di qualche major o qualche etichetta discografica di un certo calibro e livello. E noi stiamo cercando di dare una mano a questa cosa. Certo. Nonché vede la partecipazione di illustri personaggi della musicografia italiana, tra cui in primis citerei Marzio Del Testa, batterista di Ginevra Di Marco, Bugo e altri Cisco, ospite, il batterista. Citerei Don Bachi, attenzione, della banda, della banda, bene. C'è il Tombolo. Citerei Tombolo, bassista dei pezzi di ricambio. Citerei Maurizio Geri, grande chitarrista. E poi in ultimis un DJ, ormai è giunto un po' al tramonto, che si chiama il mitico Edo Rossi. È suonato una chitarra funkeggiante nel brano Piede Scalzo. Ah, come si chiama il pezzo? Piede Scalzo. Piede Scalzo. Nonché vediamo la partecipazione di una giovane contrabbassista promettentissima, nonché discreta, di nome Laura. Nonché fidanzata del nostro bassista. Ah, attenzione, fa il suo andato. Falla finita di girarmi i piatti tutte le volte questa storia. Se sei d'accordo, ti faremo sentire un pezzo del nuovo disco. Ma io voglio sentire un pezzo del nuovo disco. Ladies and gentlemen, from Volterra, California, The Maniscalco Maldestro. Niente, io comprendo. In gergo gorillone. Lenta, non troppo veloce, porca. La vogliono fare molto lenta, non è pericolo. Vai! Iniziava così. Pumpa. Ragazzi, mai applausi del genere sono stati più sentiti, almeno da me che li metto. Veramente complimenti fortissimi. Questa com'era questo pezzo? Come si chiamava? Niente, io comprendo! Mamma mia, ragazzi, ma gente là fuori, ma quanto spaccano il Maniscalco Maldestro! Ancora un applauso per loro! Questi sono applausi veri invece. Grazie. Allora, io direi di passare un disco che nel frattempo ci riordiniamo un attimo le idee da queste parti. Oh, yeah. E poi ovviamente riparte la sessione, poi dopo ci si accamporizza, poi dalla Toscana si passa alla Liguria, eccetera. Un altro disco della mia collezione, allora uscì fermi con quelle chitarre, fratelli. Dunque gli Anthrax hanno fatto un sacco di cose interessanti, giuste, dure, cattive, eccetera. Però si sono sfogati in una canzone che io ai tempi, quando la sentii per la prima volta, scoppiai da ridere, e quindi ve la faccio ascoltare anche voi, e la tratto dal disco Attack of the Killer Bees, si chiama Starting Up Posse. My posse, my posse, my posse. Now I'm gonna tell you a story, a tale of wrong and right, and freedom is the reason, you can't take it without a fight. So now I'm starting up a posse to come and look for you. We're gonna put a stop to what you want to do. You fucking whore. That's all you are. You say our records are offensive. Our messages ain't right. Yeah. Hi, everybody. This is Glenn Hughes, and I am so sorry to hear all my friends at Rock FM are going off the air. Wow. Italians love this station. It's rock and roll. We love you. Peace. Glenn Hughes loves you. Only the name. Allora, questa era Dead or Alive. Come sentite dal frastuono e dal bordello, siamo tornati nella sala B dove si gemme e si suona. Ce la siamo anche giocata un po'. Abbiamo, dai, Borchia, fai ste foto. Super. Aspettiamo che il Borchia fa la foto. Ma come sei bello, Evviva, evviva. Quanto te ne capisci, frate. Allora, dunque, abbiamo Borchia alle percussioni. No, abbiamo. Alla batteria. Certo che hai anche del bel coraggio a chiamare la batteria. Aldo, mettiti magari le voci. Abbiamo Aldo degli. Allora, come ci chiamiamo? A Camporas? Non ne ho bene. Ma ora è Aldo di Fate No More. Sì. Aldo di Fate No More. Sono proprio io. No, stai fermo. Allora, abbiamo al basso, dal maniscalco mal destro, Mr. Dado. Alright. Abbiamo all'altra chitarra il maestro French del suono grosso. Alla chitarra il DJ Edo, ci siamo. 1, 2, 3. Che si fa? Quella che ti ho detto prima non la volevo annunciare. Però tu fidati. Hai capito? Ok. Right now. Ok, 1, 2, 3, 4. My greatness in greed and dominance of persecution. My mother was a queen, my dad I never seen. I wasn't ever meant to be. Now I spend my time looking all around, for a man there's nowhere to be found. Until I find him, I'm never gonna stop searching. I'm gonna find the man, gonna travel around. Schiaccia il pulsante, il play a fianco, quell'altro, e tira sul 3. Tira sul 3. Ale! Ce l'abbiamo fatta! Grazie, Peter, grazie. Bene, allora, dunque, potrei quasi rispondere a un paio di sms. Facciamo ancora un pezzo, ce l'abbiamo qui pronto. Non so, bisogna fare un po' di sostituzioni ai musicisti, mi sa. Entra Roberto e basta. Facciamo delle sostituzioni magari dopo. Allora. Aspetta che rispondo a un paio di sms. Allora, dunque, quello lì, Peter, non l'avevi ancora letto? Da dove parto, Peter? Parto da dove voglio? Va bene, allora, mettimene uno. Sto per sboccare, Pisa. Ok, grazie. Ok, allora dunque, ciao Edu, un gran saluto a te, Numa, Eu e agli insani volterrani. Non c'è Eu, c'è Aldo, però forse tu immaginavi ci fosse il Rock Pit. Un saluto da Crampo con le sue birre, vi ascolta. Andate di rock a bestia pistacci. A bestiate pistacci. A bestia tempistacci. Tempistacci. Sorry guys. Poi dai Edo, dacci dentro con il rock, fai parlare la tua chitarra, saluti Glenny, eccola. Hello me. Ok. Poi dunque, bella Edo, a parte gli ottimi maniscalco, quasi miei concittadini, non viene nessuna bella bimba a passare la notte con te? Ma, dunque un saluto anche al grandissimo Super Topo Volante, un saluto anche a Parcheggio, Birra, Lucciole e Nottedo, grazie per essere il sottofondo della nostra serata chiusi in macchina. Wow. Rock FM Forever, Kiss, Ela e Zek, dove siete? A Inspiration Point, eh? Bene, allora un saluto anche a Ruggine, un saluto a Scorri, aspetta, cazzo, c'ho i tag sulle braccia di Fature Zamboni. Ah, aspetta, dove è finito? Che purtroppo saltano gli sms. Torna, vai più su, vai più su, vai più su. Aspetta, che me lo gestisco io. C'è un mouse qui, vero? C'era un mouse. Ah, no, è caduto per terra. Perfetto. Allora, c'è il tag sulle braccia. Amo le luci e Rock FM e il maniscalco. Che mi si presentò in Baraonda quando in zona girava DJ Fetus. Prima di finire a Firenze al Red, oggi Closer, Maniscalchi, rimanete indie. Questo lo dice Ruggine, quindi è un messaggio per i grandissimi Maniscalchi. Poi, e dunque, Edo, lo sapete che vi voglio bene, ma questa è la notte rock più pazza che abbia mai sentito, grandissimi, a oltranza, Max Murdoch. Grazie Max, membro di rockfamily.it, un saluto a Brutus che dice, Edo, sei mica passato dall'entroterra genovese, è la mia collezione di LP, questa non è la tua, grazie mille Brutus, fino alle 6 sono con te, grazie davvero. Poi un saluto a Slap Isterica che ci dà la buonanotte, in particolare ai Maniscalchi, e un bacio al Fefo che ti tiene compagnia, bravo Fefo, sempre a smanettare di notte in giro, eh. Poi un saluto a Mike che dice, ma senti che metallare il buon Edo, grande quella degli Anthrax, e domani passo da voi. Ciao Mike, occhio che stiamo facendo salire sempre meno, abbiate pazienza. Le ottave sull'elettrica sono una figata, le amo, I'm not a cowboy, ma è uguale, spaccate i culi ragazzi, grazie davvero. Un saluto a Manuel. Un saluto al Monsignor Fefo che chiede un disco che non ho capito, e non dire che non si accettano richieste, che stasera tutte per Besso. No, per te no, mi dispiace. Poi no, scherzo, Fefo. Un saluto a Nick da Erba che dice, torno adesso da Glenn Hughes, troppo funky. Beh, il disco nuovo è fortemente, volutamente funky, poi domani facciamo sentire anche l'intervista registrata oggi. E poi Rock in Progress dice, Edo, spaccate di brutto altrimenti ti aizzo contro il Fefo. Mi hai sorpreso ieri che ti sei il mio nome, ti sei ricordato il mio nome. Caro Rock in Progress, non posso che cercare di ricordare tutti i vostri nomi. Allora ci andiamo a sentire un disco che non è un disco, ma è un disco della Madonna, e poi torniamo a suonare qui dalla Nottedo su Rock FM. Thank you. fault. If you've been bad, Lord, I bet you have. And you've not been here, by flying there. Era Child in Time dei Deep Purple.